Buonasera dalla redazione toscana, weekend col sereno, le previsioni del tempo fanno ben sperare. Zare così, c'hanno il numero sul groppone, fanno le Olimpiadi, c'hanno il mitra, veste zanzare. Sono camaleonti. Dice che l'afa di questi giorni, perché oggi si scoppiava, le piogge dei giorni scorsi, l'umidità che c'è al mattino ha fatto proliferare queste zanzare e le farmacie sono piene così di richieste per pomatine, pomate, unzioni, roba del genere per gonfiori epidermici, che a Livorno si chiamerebbero volgarmente o bubboni o gavoccioli, insomma, detto fra noi. Ebbene, queste zanzare si dice che sia un fenomeno stagionale, ma sinceramente danno un po' noia a tutti. L'anno in corso celebra il centenario di... Ehi, ma che diavolo! Giorgio, ci lasci andare al forte di Bibbona? Abbiamo un appuntamento! Dobbiamo essere precisi! Anzi, dobbiamo spaccare il minuto! Ma non sparate le grosse! Ma che avrete mai da fare in mezzo a quelle rovine trasformate in casa parrocchiale? Dare la caccia ai gabbiani? Guardate che quelli è da mo che non mangiano più pesce! I gabbiani adesso si nutrono in discarica! Comunque andate, andate e tornate per l'ora di pranzo! Puntuali, mi raccomando! Via! E noi, Giorgio, che facciamo? È una così bella giornata! È anche un caldo africano! Ce ne andiamo a fare una passeggiata? Sì, direi che è una buona idea. Però prima passiamo al centro commerciale, che così mi leggo le locandine dei giornali. Come? Ti leggi le locandine? Perché? Non li leggi i giornali interi? Ma che tempo perso! Leggo i titoli, mi immagino il contenuto, faccio finta di indignarmi e così faccio un figurone al bar litigando su cose che o ho inventato io oppure compiacendomi delle bugie che faccio bere agli astanti. E poi mi criticate perché non ho Facebook. Io faccio meglio di loro. No, no, per quello ti rispettiamo. È per il resto che ti contestiamo. Insomma, basta, mi deconcentrate. Fatemi leggere il Corriere di Cecina. Lascia perdere, faccio io. Furto del secolo in Piazza Guerrazzi. Tutti i dettagli all'interno. Ma che, non sai leggere? Diciamo che ancora non ho cominciato a fare i compiti delle vacanze. Comunque, abbiamo capito. Il solito politico si è preso una tangente per il classico appalto. Basta con questi politici fannulloni che prendono i vitalizi. Tutti in galera! Ecco cosa ci vorrebbe! Che ne dite? Vi ho convinto? Neanche per un po'. Piuttosto, compriamo il giornale e leggiamoci l'articolo. Vado io! Ma che pignolo è diventato Alessandro! Tutta questa precisione per il Corriere di Cecina! Vedrai che ho ragione io e stasera al bar farò un polverone! Farai piuttosto il solito figurone! Un figurone di cacca! E scusa il francesismo! Come si fa a parlare di un argomento senza saperne niente? Prima ci si documenta, poi ci si riflette e solo dopo, al limite, si parla! Il contrario lo fanno gli sciocchi. Ha parlato l'intelligentone. Adesso non mi dirai che leggi anche l'interno dei libri invece che solo il titolo sulla copertina. Roba da matti. Ragazzi, sentite qua. Nella notte è sparito un cannone. Si trovava al primo piano di una mostra. I carabinieri lo cercano dappertutto. Fai vedere, dai qua. Velieri, grandi storie di mare, a Cecina fino al 16 settembre. E dove l'hanno fatta questa mostra? Nei capannoni dell'ex zuccherificio. Allora significa che finalmente l'hanno rimesso. Era l'ora, è dagli anni 30 che era abbandonato ed è almeno 20 anni che si parla di recupero. Però nisba, e per forza. Come si fa a pensare che sia un buon affare costruire sempre nuovi appartamenti quando la popolazione è in continua diminuzione? E infatti per molti di questi progetti di recupero le immobiliari chiudono e le concessioni edilizie scadono. Comunque bene per Cecina che la vicenda si sia conclusa. Finalmente hanno spazi abbastanza grandi per ospitare mostre di grosse navi. Figurati, c'è pure l'Amerigo Vespucci. C'è anche il Bounty, se è per questo. E la Santa Maria, più un'altra ventina di navi famose. Adesso però facciamo due conti. La Vespucci è lunga almeno 100 metri e larga 15. Il Bounty era lungo 27 metri e largo 7. La Santa Maria lo stesso. Ma c'è anche la Constitution, che è lunga 62 metri e larga 13. Che tu le metta per lungo o che tu le metta per largo, servirebbe un'area vicina a 300.000 metri quadrati. Parliamo poi dell'altezza. Questi velieri hanno le alberature alte fino a 70 metri. Quindi per ospitare una mostra del genere servirebbe un posto 4 volte più grande della grandissima Reggia di Versailles. E poi c'è un piccolo dettaglio: a Cecina non c'è il mare. Quindi che mostra sarebbe? Una mostra di modellini bellissimi e tutti fatti a mano. E che ci faceva un cannone vero a questa mostra di modellini falsi? Il giornale dice che era la ricostruzione di una postazione da combattimento, ma il cannone era autentico. Tra l'altro è sparita anche una palla del cannone. Le indagini sono avvolte nel mistero. Vabbè, che ci frega, stasera mi inventerò qualcosa per quando andiamo al bar. Dirò che il cannone lo ha rubato il solito politico come tangente per un appalto. Farò la sparata sui vitalizi e poi concludo con la galera. Anzi, per farla più drammatica, perché non mi fai un bel cappio dell'impiccato? Agli scout qualcosa vi avranno pure insegnato. Sì, a stare alla larga dagli strulli. Per questo è meglio andare verso il mare. Sbrighiamoci, altrimenti non faremo in tempo per tornare a casa e mangiare a un orario decente. Sentite, a me andrebbe un gelato, uno di quelli buoni. C'è una buonissima gelateria artigianale appena prima del forte di Marina di Bibbona. Non intenderete mica uno di quei posti dove il gelataio sul retro mescola uova, latte e zucchero, poi le mette nel congelatore e infine lo serve al bancone. Ah sì, bleh, che schifo. Magari c'ha le mani zozze di gabinetto perché non è solito lavarsi le mani. Preferisco di gran lunga i gelati nelle bustine di plastica. Quelli sì che sono sani. Intendi gelati confezionati, cioè quelli industriali? Proprio quelli, però non so decidermi sulla marca. E perché? Perché i gelati oggi sono tutti uguali. Quando ero bambino io, una marca aveva un certo tipo di gelati e un'altra marca ne aveva degli altri. Adesso hanno tutti le solite forme. Gli cambiano i nomi, ma per il resto c'è poca differenza. Intanto aziende come Algida e San Montana hanno acquistato altri produttori, tipo Eldorado e Samson. Poi hanno eliminato i cloni e si sono tenuti prodotti originali, prodotti di successo, tipo il Calipo, il Cucciolone o il Sansoni, che è il mio preferito. Ma come? Di tutti quei buonissimi gelati e di invenzione italiana hai scelto l'unico gelato americano della lista, visto che è fatto sulla falsa riga del soft, il gelato di McDonald's per intendersi, che poi gelato non è, quello è zucchero congelato. E di gusti tradizionali quali sono i tuoi preferiti? Che domande, Puffo e Oreo! Uno sa di marshmallow e l'altro sa di biscotto americano. A te ti ha dato di volta il cervello, ma che hai mangiato da piccolo, stelle e strisce? Senti se ti pigliano a Camp Derby, con dei gusti così magari ti pigliano per un loro paesano. Comunque non avete risposto alla mia domanda, perché i gelati sono tutti uguali? Ma che alla San Montano o all'Algida sono fessi e si fanno fregare dai concorrenti? Tutt'altro, è una strategia di marketing. Un'azienda inventa un gelato di successo, ne registra la forma e il nome, anzi, diciamo pure che li brevetta, ma non brevetta la ricetta, perché composti di zucchero, latte, uova e cioccolata, pur mescolati come ci pare, non hanno nulla di originale. Così gli altri copiano il prodotto, con nome diverso e ricetta leggermente modificata. Tanto chi li mangia sa che sono tarocchi. Infatti l'azienda che produce l'originale lo pubblicizza tutta birra, mentre le altre si astengono dal farlo. La conseguenza è che il prodotto originale sarà quello più ricercato e caro, mentre i cloni saranno un rimpiazzo più economico ma meno ambito. E così ci guadagnano tutti, invece di scannarsi in costose dispute legali, anche perché gli uni hanno i cloni degli altri. Prendi il caso dei biscotti. Prima i pan di stelle le aveva solo il Mulino Bianco e le gocciole solo la Pavesi. Adesso sono di tutte le marche, perfino quelle dei supermercati. Anche qui vale lo stesso discorso che per i gelati. È registrabile un prodotto per nome e forma, ma non brevettabile. Infatti la Barilla ha fatto causa, vincendola, a un'azienda tessile che senza autorizzazione faceva cuscini a forma dei suoi biscotti. Non ha mai fatto causa alla Coop o alla Conad. Inoltre c'è da tenere presente che probabilmente molti dei biscotti clone sono fatti direttamente dall'azienda madre, ma per altre marche, anche sue concorrenti. Non mi chiedere perché. Business is business. Business. Business is business. Gli affari sono affari. E che mi dite dei Lego tarocchi che vendono i cinesi? E non solo loro, visto che li producono anche aziende italiane. Il brevetto dei Lego è degli anni 60 e come tutti i brevetti scade dopo 20 anni. Dagli anni 80 chiunque è autorizzato a produrre Lego, anche se è costretto a chiamarli in un altro modo, come la Kubrick's di Treviso, che chiama i suoi mattoncini Lego compatibili. Oh, ecco il forte, siamo arrivati! E per stare dietro alle vostre cannonate non mi sono neppure mangiato un gelato. Adesso è tardi, è quasi mezzogiorno. Vi sembrano familiari quei due lassù? Ma sono Giorgio e Leo! Ehi, voi due, che fate lassù? Silenzio là sotto! È quasi l'ora! Ehi, ma quello sembra un cannone navale del 700! Dove ne ho visto uno simile? Ma è quello della mostra! Che avranno intenzione di fare quei due? Artiglieri, attenti! Caricate, puntate, fuoco! Oh no, hanno tirato troppo basso e la palla ha bucato le mura. Eccoli che arrivano. Visto? Il Gianicolo sul mare di Bibbona. Ma chi vi credevate di essere? I pirati dei Caraibi. Adesso chi lo sente il vescovo? Perché credo che sia suo. E se non è suo è del demanio. E non so chi tra i due sia il più incazzuto. Sì, pronto? Sì, certo, glielo dico, grazie. E chi era adesso? Era la sovrintendessa di Pisa e Livorno. Non l'hanno presa bene la storia del Gianicolo. E soprattutto non hanno digerito il buco sulle mura. Dice che ti toccherà rimediare. Ma che ci fa qui il camion della Lego? Come? Il signor Giorgio? È qui, è qui! Sì, sì, scarichi qui! Ah, ecco cosa intendevano per rimediare. Giorgio, ti toccherà riparare il buco a forza di mattoncini Lego o comunque Lego compatibili. Oh no, ma è un buco enorme, ci metterò tutta l'estate! Vabbè, per caso il camionista vi ha lasciato il foglietto delle istruzioni? Sono.